Senza mentire mai, senza fingere adesso, dirò quello che vuoi. Zitti, ascolta, per favore. Oltre la mia viltà c'è una fiamma che brucia, vorrei stringerti ma la mia mente è confusa. Dirò quello che sai, però chiamami un dottore. A me piace la faccia che fai, i sorrisi, i tuoi occhi strani e il tuo immenso respiro delicato che si posa sul mio viso. E mi piacciono i riccioli neri che si imbrogliano sui tuoi seni, profumo determinato che nel naso mio è il suo scopo. E con avidità, col mio cuore aguzzino, senza piangere mai, senza fretta o destino, pago il prezzo che vuoi, quanto costa il tuo stupore. E ogni giorno che passa è una foglia che vola dal mio albero, ma questa vita è una sola, se pazienza non hai, presso spezza il mio dolore. A me piacciono anche le mani che mi cercano tra i pensieri, il tuo pianto spezzato da un sorriso. Per me l'amore tuo è un regalo e mi intrigano poi i tuoi segreti che mi spingono nei tranelli del tuo caldo silenzio. Ed io ci cado come un cretino e vado a fuoco e più cammini e più mi piace il dondolio dei fianchi, non mi dà pace, è più respiri, è più rapace, lo sguardo mio è di tutto.